10, c'è qualcuno? Ciao Gianni. Ciao Lucrezia. Ciao Nannini, come stai? Come sto? Sono un po' deluso. Vai, stavate stavo chiamando, boh, non ti ho risposto. Perché poi ho chiuso. Deluso perché mi ha battuto Savini. Con un attenino piccolo così. Ma la sto tirando. Allora tu conta, eri da me eri uno a picchi quasi di tre. Con quello da tre a picchi modulati 5 quasi. Sì, si rende. Speriamo che renda così anche in lontananza. Poi farai la prova con la tua. Ma comunque rende, io ho visto Savino con suo portatilino, la santa si fa sentire bene. E adesso ne ha un altro, ne ha fatto un altro, quello Maxon. Ha fatto il Maxon, cazzo, si è fatto lo stesso. Il Maxon. Ce l'ha preso il Maxon, quello che facevano SOS, quello che era quadrato, di plastica, che pompa bombe di radio. Un attimino, c'è un messaggio. Sì, che c'è, chi sei? Avanti. Avanti, chi vuole entrare? Io non sento nessuno. E io glielo sento, però. Avanti, chi ha detto non c'è nessuno. È sparito, è buono. Era basso basso, però. Non so da dove era. Pensavo che l'antenna, quella, la Turbo 2001, fosse una delle più performanti, invece mi sbagliavo. Vuol dire che se ti ho guardato bene lo Smith. Cazzo, già, se no, non ti dico una cosa per un'altra. Non mi entra niente in tasca. È così, il buccio, ho detto, no, già è uguale. A prima anche pensavo che arrivassi più forte di tu, invece no. Come resce? Allora, arrivi più forte di tu con quell'antenna. Cioè, ti spiego, se metti l'antenna tu arrivi quel tanto lì. Però se fate la prova, siccome tu hai più fatte nel baracchino, arrivi più forte di tu, Gianni, capito? Posso al video. No, aspetta. Allora, l'antenna è stata messa nella macchina mia, quella di Savilio, e abbiamo fatto le prove sia con la mia che con la sua, hai capito come abbiamo fatto? Di modo che non cambiassero né watt né niente. Sì, però ci rende di più da te comunque sia, dai. Beh, i watt sono di più naturale, no? Prenda di più, i watt erano di più miei, lui ce la sta facendo con 2 watt, un apparecchio che ha 2 watt. Quello là già, alla fine dovete fare la prova uguale, perché se la regia è quella che te lo fa fare comprarla. La prova l'abbiamo fatta uguale. Se con la macchina mia, con gli stessi watt, da te da ti dà 5 e con la mia 3, vuol dire che la sua è superiore. Infatti che ho fatto la prova così, giusto, è vero, è vero. Non ci stavo pensando. Vabbè, comunque. Chiamava bene, piccolina, ma sincera. Oh, via. Casino, cioè, sta facendo freddo oggi. Praticamente mi sono curicato, mi sono messo la borsa d'acqua calda nel letto, via. Stavo da Dio. Io la coperta in pile. Copertina in pile e più la lenzuola in coso, in flanella. Perché lo sei diventato cirimella? Lui. Cirimella. Cagamella. Oh, niente. È un'antenna che io non conoscevo assolutamente, né di marca, né di nulla. Proprio non l'avevo mai vista. Pensavo che fosse antica, capito? Che fosse una di quelle antenne antiche che... Siccome a lui gliel'hanno data, gliel'hanno regalata questa antenna, che era in un magazzino, c'era altra roba, capito? Gliel'hanno regalata, non so se te l'ha spiegato. Vabbè, comunque, pensavo che fosse un'antenna antica, capito? Ma a chi l'hanno regalata? A Salvedio, Salvedio. Ma questa antenna che c'è adesso, che stai provando tu? Gliel'hanno regalata, sì. E a te tu gli regalare tutto? Anche il portatile, gliel'hanno regalato tutto. Va bene, mi deve essere portatile truccato, guarda che cosa, gli hanno aumentato il watt, cosa ne so. Che è vero, no, già esce bene, ma la so, esce bene. solo che col portatile in macchina non ti viene molto bene a parlare, almeno che tu parli da quando sei fermo, però se devi parlare camminando è un casino. Fate quello. È troppo ingombrante, adesso io devo trovare un attacco per il mazzo, perché non li vendono quelli, cioè presente quegli attacchi femmina col buco piccolo, piccolo, piccolo, più piccolo che c'è. Tu dai che c'è la bamba? Senza sedile la banda, senza sportelli, senza vetri. La carrozzeria sicuramente. Che cosa? Cosa si dice? Sono il 5P. Questo di colore, c'è una palla, senza affari, senza parabrezza, senza sportelli, senza vetri, nulla, non c'è niente. Senza sedili. E la trasportano senza sedili. Ah, già l'ho visto, sì, in una carrozzeria lavora quello lì. Sì, sì. E non hai visto quello che balbuzza? Come fa a ridere? No. Ciao, Shigumi. Praticamente che lavora in una carrozzeria, poi ce n'è uno che lavora in un supermercato e quando parla si fa pulceggiare tutto, e non lo fa apposta, è balbuzzetto un bel. Avanti, Manuel. E beh, 5, sei in 4 visto dalla radio, boh. Ti mandami il numero così ti contatto un mio amico per prendertela. L'ho già venduta, ma ammazzati. Tu basta segnalarlo a... come si chiama? Agli amministratori. Vedrai che lo buttano fuori. Dai, boh, boh. Mangia cassetti. E sarà la cinghia da cambiare. Scusate, va a vuoto, capito? Si è allentata la cinghia. Il problema è quello, tranquillo. Se il motorino gira, se tu schiacci il play e senti che il motorino che gira, gira a vuoto perché c'è la cinghia andata. E sai cos'è, Emanuele? Quelle cose lì. Ci sono troppi ingranaggi. Se uno cosa smonti, tieni brincaduto, ciao, addio. Lo deve fare un esperto quello, Emanuele. C'è uno che lo sa, che sa dove mettere le mani. Se ne salta qualcosa sa dove va, capito? E beh, poi il televisore è lampato. E io te l'ho detto, ma sta col pannello LCD. E basta, adesso ce lo butto. E i LED anche nel sacco. Servono, possono servire. Perché io ne ho uno, lo sgabuzzino, ma non penso che vada bene. E l'ultima generazione c'è il pannello LCD danneggiato. Ed è un... non so se è un 43. Cos'è un 43 pollici? Io che Sant'Antonio riserva mentre ci vuole, deve aggiornare il software, non ce la fa, capito? Se avesse un altro problema, cioè, si vedeva, tipo un problema, cosa ne so, uno schermo, problema d'accensione che si accende e si spegne, e rimane acceso, è un problema di software. Il mio sta ancora andando, quello che ne chiama Toilet. E vedi, quanti anni ce l'ho fatto già adesso? Un bel po', sarà 2 anni fa, sì, sicuramente 2 anni. E quello lì l'avevo preso con i punti della ESO, me lo ricordo bene. Ed è un LED, non è di quelli da buttare, si vede bene. Finché funziona, ma io, questo me l'ha fatto Daniele Licchieri, questa TV 40 pollici, praticamente c'erano i LED bruciati. Io ce li avevo recuperati da una TV. Adesso c'ho qualche palla di LED da cambiare, se in caso mi si rompe di nuovo, e panni LCD ne ho due. Di questa TV qua, in caso mi si rompe, questa notte mi è caduto, mi è caduto in terra, e meno male non si è rotto. Perché non si è rotto? Perché c'è il pannello di ricambio, cioè che se sarebbe rotto gli avrei cambiato il pannello, non si è rotto, allucinante già, cazzo. Ma il televisore che è la caduta che mi sono preso io l'altro giorno. E io ne ho preso una, Gianni, lascia perdere, ma brutta. Io ho rischiato anche di morire, fregatene. Allora, io stavo lavando in terra e poi mi sono ricordato, devo prendere gli occhiali perché ho detto, mentre asciuga mi guardo il telefono. E gli occhiali ce l'avevo in cucina, e per non sporcare con le scarpe, mi ho tolto le scarpe intelligentemente, la piedi nudi, sono scivolato. Ho sbattuto, poi ci sono caduto dentro il secchio alla valentera, si è rovesciata tutta l'acqua, non riuscivo a sollevarmi perché come andavo a sollevarmi scivolavo. Alla fine ho chiuso la medica giuda, la Iana in alto, la porticina del doppio servizio con la soffietta. E alla fine ho chiuso la porta della cucina, mi sono attaccato alla maniglia e piano piano mi sono sollevato, ma sono tutta duro. invece sono caduto a faccia a terra 2 anni fa da Alghero, 2 o 3 anni fa, dai. Ho sbattuto la come si chiama? Lo zigomo a terra, c'è 3 scalini, ha fatto tutto così, ma sono stato malissimo, è male, infatti ho dovuto fare l'attacco. Grazie a Dio mi è andata bene, ma me l'ho vista brutta, quella mezz'ora, un'ora, 2 ore, ero lì zaiato nel coso, stavo morendo di mal di testa. Infatti mi diceva, io andiamo all'ospedale, ma cosa va all'ospedale? In ciabatte ero, mi stavo giocando con l'acqua. Adesso dimmi tu, il pavimento liscio, cazzo, ma dimmi tu, vabbè c'è un po' di ciabatte di merda, quello sì. Ma se fosse stato un po' ruvido il pavimento, non sarei caduto. Cazzo, come un coglione sono caduto, come un coglione. Ho detto, io andiamo, faccio un giro lì, eravamo proprio vicino alla spiaggia di Alghero, no? 2 passi proprio. Cazzo, mi sono girato, mamma mia, ma me lo sono vista brutta, mamma, brutta. Infatti poi ho fatto l'attacco, tutto quanto, le visite, ma non male, grazie a Dio, ma me l'ho vista brutta, brutta. Ma l'avevi detto a casa di quei tuoi amici ad Alghero, di fronte a Lido, così? Esatto, è più lì. Ma me l'ho vista brutta quella giorno. Ma di testa, guarda che anche gli occhi me ne stavano uscendo. Si è svenuto? No. Poi mi è mancato il respiro per 5 secondi. Mi è mancato, forse anche 10, va. È brutto quando sbatti la testa, organi che compromettono queste cose. Vabbè, interessante raccontarlo. E tu pensa che sbatto anche il fianco, le costole. Ah, guardate, proprio mi è mancato il respiro quel 10 secondi, ma brutto qua. Poi mi arriva questo mal di testa, ui. Ho dovuto prendere un occhio, nulla, mi ha fatto un cavolo. Stava gonfiando la faccia. Ah, caduta brutta. In vita mia, guarda, sono caduto, ma no a quelli figli, eh. Sì, posso dire che te lo sto raccontando, va, perché mi è andata bene. Ehi, sono cadute rovinose, perché anche io non ce l'ho fatta manco a naspare. Sono caduto di peso e boom, basta, sono scivolato, boom, e dico che mi sono comparato. E poi tutto il peso, cioè peso di acciaio, 80 kg, bisogno. Poi quando cadi così, ha peso morto, ancora peggio, mamma mia. Non me voglio ricordare, guarda. Ma com'è non si è facendo un pavimento? Ma come hai 3 scalini solo? Se ne potete stati tanti, non sarei qua a raccontartelo, fidati. Io sono caduto dalle scale una volta, cazzo, col carrello, salendo l'acqua, col carrello lavorando, portando l'acqua all'ultimo piano, questa qua ho preso il carrello per portarla su, cazzo. E ho messo male il piede, sono scivolato, cazzo, con le gadget, tutta la roba in alto, tutta l'eva, cazzo, un casino. Mi siete dannaggi, mi. Tu mudo. E perché? Perché già lo sai che non si dicono certe cose. Brutto cocco, ma è che... Dove è caduto la tarina? Come è la tarina è entrato? Allora, ci sta dicendo che siamo dannaggi, boh. Ci ha detto poche di cose. E una volta ha usato la mia successa a me, Luca. Ci sarà da lavorare, anche tanto. Dico, mettimi la scala, Angelo, e ma poi c'è una cara. Dici che a Fubica, no? Però me l'ha messa a dritta perché dovevo salire a legare un dipolo. E mi l'ha posta a rinverso. Sono caduto e sono rimasto attaccato alla scala. Perché mi si è piegata la scala. Sono rimasto con la gamba incastrata nella scala, a testa in giù. Tu mi dovevi vedere. No, io il giorno di Alghero l'ho vista proprio brutta, va, per carità. Brutta. E vabbè, dai. Infatti, meno male che mi hanno fatto subito l'attacco. Perché non c'erano posti, però la mia era una cosa urgente, non stavo bene. Sto male di testa forte che mi era rimasto. E vabbè. Casino, purtroppo. Interessante sempre raccontare le cose. Senti, se ero caduto in moto, non sarei stato qua a raccontarlo. Quella testa è delicata, molto delicata. Cinco, ci sei. Cingomino, chissà cos'è Fendi. A fette di salsiccia. La carovassi non fa di meglio. Che la useremo per tirare giù. Che vabbè, ciao, guarda, sempre conservato questa. Lo stesso, mamma mia. Io già ho pensato subito al femore, mi cazzo. Come sono caduto subito, la prima cosa ho pensato a quello. Oh, riuscì a sollevarmi perché ci sono caduto dentro il secchio dell'acqua col gomito e l'ho rovesciato, perché l'acqua era insaporata, quindi c'era detersivo. Andavo a alzarmi, scivolavo la taglia. Oh già, monete sempre conservato, ne sai. Che cosa? Monete. Eh sì, ma non molto spesso, dai. Qualche volta le sto mettendo, sì. Io sono già a quota 300 più 330. Ah, no, ci avrò io 50, mentre tu sei un buon conservatore. Ehi, ma già va bene, perché poi ti fa regalini, capito? A fine anno ti fa regalini. No, per il gioco. Cioè, proprio, no, è che questa cosa è così, è una cosa che mi ha pigliato l'uscio, la rimuni, prendo, quando ce l'ho e la metto nel bicchiere. Da due, da uno, per la 50 centesimi anche, ovvio. Però qui ti è dato un gusto. Poi c'è l'altra volta ho fatto 1000 euro da 2 euro. Io mi sono comprato su internet il salvadanaio che conta i sudi, tu man mano che metti le monete ti c'è il display che ti scrive quanto c'è. Ah, no, è brutto così, meglio non sapere niente. No, invece è meglio saperlo, e così almeno ti regoli. Io per dire, cosa ti posso dire? Tante cose prendo da quelle monete lì. Se mi servono prendo, le tolgo e compro la roba che devo prendere. Beh certo. No, io vabbè, io quelli li ho cambiati perché dovevo andare al dentista, capito? Ma Tari, la vuoi sapere l'ultima? Narala. Saverio mi ha battuto con l'antenna, lo sai. Abbiamo messo tutte e due le antenne, quella mia e quella di Saverio. Col mio apparato le abbiamo provate tutti e due. E Luca mi ha detto che io arrivavo da 1 a 3 attenuato, invece Saverio da 3 a 5, con quella di Saverio da 3 a 5. E cioè batte più quella di Saverio, così è. Andiamo laggiù. Eia! Mi sono rimasto secco, capo. Un antennino piccolo, poi è bellino come estetica anche, poi la calamita, non te ne parlo, tiene molto molto più della mia. Ho detto stacca questa qua, cazzo non riesci a staccarla, invece la mia si stacca subito. Fa una cosa, ma la macchina tu io avevo vista che passava il video. Ma così la di Sant'Enna. No, la parola non si la lampa, che oggi manca domenica, costa 65-69 euro, adesso non mi ricordo, e ne ho due, adesso quando trovo qualche autista che la vuole, gliela vendo. Ehi, infatti, per te non va bene, no? Ti rovini la macchina e basta. Già fatto, già mancata, come mi è caduta mi ha mancato la parte di dietro. Vabbè, non si vede nemmeno, è piccolo, piccola, piccola, piccola la mancatura. Verdice non è tolto la sola mancata un po', ma piccola però, devi metterci frutto l'occhio per vedere. Vabbè, dai, già l'ordiniamo, non c'è problema. Mi piace anche come antenna, è bellina, e come senti che è bella, capito? Infatti, sei più piccola, più leggera, e matti di più della duia, già ma dirà subito. Lì, non c'è bisogno né di fare pietra né nulla, tutto completo c'è, calamita, pelle, tutto qua. Perché si avvita quella lì, è avvitatura. Eia, ma in più c'è anche il pelle suo, capito? Non c'è bisogno manco di fare il pelle, niente. E ancora. È già predisposto tutto quanto, ti arriva già completa. Abbiamo la misurata, so bene, uno e due di stazionari di là. Figurati. La mia mi dava 1,1 e 1,2 nei canali alti, la verità, come stazionare forse è meglio la mia, però 1,2 va benissimo, io ho voglia. Non è così. Cretta se farà. Cade al monte, assettatosi. E vabbè, comunque. Era accorto qui a cavare tutto, mi stavo già girando. Oh già, ti devo lasciare perché sto mangiando, dai, ci sentiamo più tardi. A che ore sono? Un attimo, già, 10 minuti arrivo. Sono qua, come l'altro giorno, ti ho già citato? Che avanti? Allora Gianni, come se va? stava tra bene, un po' deluso sono dall'antenna. Io mi giusto adesso mi sono un po' liberato e niente, e quindi hai avuto l'opportunità di provare quell'antenna. Io abbiamo fatto le comparazioni, siamo andati sul quadrato, veramente abbiamo provato il tappetino da lì e siamo andati e l'ho detto a Sabino, togli l'antenna tua, mettila nella macchina mia. Abbiamo provato prima con la mia, sempre dalla macchina mia, sempre con lo stesso apparecchio, e poi con quella di Sabino. Quella mia arrivava a Lucca, uno attenuato e intendo, uno con picchi a 3, dai. Invece quella di Sabino da 3 a 5 addirittura. Quindi già va bene, infatti ieri si sentiva molto bene lui. Ma io l'avevo già capito che era un'antenna che andava bene. Sì, sì, e poi non costa neanche molto, costa 2 citti, dai, se vogliamo. Cioè tu vedi come è fatta dentro, ne abbiamo tolto la gomma, no, che c'è sotto. Dentro c'ha la stagnola, di modo che faccia un piano riflettente. Forse anche quello che l'aiuta. Può essere, non quello fa massa bene. Yeah, praticamente è un'antenna che vale, è un'antenna che vale, io me la voglio prendere in un modo o nell'altro, se tu vuoi fare quella cortesia te la ordini anche tu, così almeno vediamo. Ascolta, è com'è l'antenna e la base sono separati così? No, è tutto insieme, c'è antenna, base e PL, è tutto, non c'è bisogno di fare nulla, tu la vedi la piazza. Ah ok, dai, adesso aspetta che prendo il telefono, che mi avevi mandato la foto così la vedo. Sì, adesso ce l'ho, radioantenna Schunker Elite CB con magnetico base supporto 600 watt. 36 euro più ci sono 4,99 di spedizione, però adesso poi vedo, perché mi sa che questa è, no, non vorrei sbagliare, ma è su Amazon, no, eBay forse, o eBay, però guardo anche se c'è la identica e magari costa di meno anche. E infatti è proprio a vedere. Ma io, Carlo, se te la prendi tu, così vediamo anche in lontananza come va. Sì, sì, adesso dopo la cerco, dai, con calma mi metto e poi se la trovo già ti mando le foto. Io, va bene, dai. Poi, vabbè, già lo sai, non c'è problema, quando ci troviamo ti dico. E quello già non è un problema. No, no, è un problema. Caspita, è un dovere. Adesso guardo, vediamo se la trovo su Amazon, vediamo. Dove cavolo è? Eccolo qua. Oh Gianni. Yeah. Pensa, costa 10 euro di più. Su Amazon? Sì, esatto. Figurati. Quindi come viene dai B? Infatti, quando è così, perché costa qua 45 e 76. No, qua è 36 e qualche cosa, aspetta. 36 e 12. Più 5 euro li dividiamo a metà, la spesa di spedizione, 2,50 a testa. 36, 50. Sì, è una grattata. Sì, Asco, tu che l'hai vista com'è, di quanto è alta? No, è alta come la tua più o meno, Carlo. Come quella tua. Deve essere un metro e cinquanta, 1,60 m. Ah, ho capito, sì, è più o meno allora come quella. Sì, è da vedere. Già si può fare anche il coso, l'ordine e poi quando arriva se la do non ci sono problemi. Magari domani mattina ci troviamo, ci prendiamo il caffè, se sei libero, ti do il suo. No, domani mattina c'ho il turno di lavoro, non ci sono, perché c'ho il turno dalle 7 sino alle 15, c'ho una specie di turno centrale, infatti mangio là e poi rientro dopo pranzo, non è un problema quello, dai. Poi quando c'ho un attimo che mi siedo nel divano, se appena lo faccio già ti mando il coso, l'esito dell'ordine, dai. Eia, mi fa un grosso piacere, dai. Non c'è nessun altro già. Era Luca, c'era Manuele, eccetera, eccetera, poi sono scomparsi tutti, non lo so, Natalino c'era, però stava mangiando. No, io ho già mangio più tardi, così presto, dopo vi vedo dopo la fame se mangio così presto. No, io lo stesso. Però prima ho sentito qualcuno che diceva c'è nessuno, ma una voce bassa, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Sì, l'ho sentito anche io poco fa. C'è nessuno su 10 che vuole entrare? Mi sono tutti in ascolto. No, ma io era perché prima si sentiva questa radio molto bassa e quindi ho detto magari ho schiacciato la portante, ho sentito il bip e poi invece mi hai risposto tu e mi ero quasi dimenticato. Sì, no, già ce n'era di gente prima, ma poi si sono allontanati. Non lo so, forse Emanuele sta affettando salsiccia, Manuele non c'è. Luca mi ha detto che entrava fra 10 minuti, sono passati a 15. Magari avrà da fare anche lui. Ehi, sta sempre facendo, sta aggiustando, facendo. Vabbè, si dà da fare, dai. Già non si può dire che non si dà da fare. Infatti. Niente, io che prima ero uscito in giro con mia moglie a fare un po' di spesa, perché il frigorifero si svuota velocemente, capito? Ogni 2-3 giorni stiamo a fare spese. Ma a casa è lo stesso. Io consumo molta frutta. L'arancia me ne mangio due ogni pasto, immaginati tu. Le mele le do anche ai luri, gliene do una al giorno di mela intera e quindi anche quelle partono. E poi tutto il resto, dai, io faccio molta insalata. Adesso ultimamente mi sono comprato le bietole, me le ho fatte insalata, ma mi piacciono da morire a me, le bietole fatte insalata. Le metto molto aceto perché mi piacciono così. Mi rimangio e a pensare che sotto casa è pieno, ci sono queste foglie perfette, non c'hanno un buco perché mi pisciano i cani e quindi le proteggono da ogni insetto, dalle malattie eccetera. Con l'urina è solo che io ho visto gente che le fa, infatti gliel'ho detto a uno, gli ho detto guarda che qua sono i cani che mi fanno la pipì, mi ha detto purtroppo io non c'ho lavoro, le metto a bagno e dice con le vanno ci pizzano ma chi gli butti in capo, così mi ha detto. E tu ci credi che poi le lava eccetera, a parte che poi l'urina non è che la togli tanto facilmente, capito? Quelle sono cose che le prendi in aperta campagna, capito? Può capitare anche là che ci vada un animale, per carità, non è che, però è sempre meglio lavarle. Lui ha detto che le mette nel bicarbonato, a bagno nel bicarbonato con l'acqua e poi se le fa, ma magari se le vende, capito? Le vende in carusa che è andato per le appresi. E infatti magari sono anche più saporite. Che schifo. Guarda, io ho questo presentimento che forse proprio perché c'hanno l'urina non ci vanno gli insetti a mangiarsi le cose, perché sono foglie perfette senza un buco, tu le vedi, guarda, ti viene voglia di prenderle perché crescono ma rigogliose, proprio belle foglie. E invece me le ho comprate di quelle coltivate, ma c'erano buone lo stesso. Sì, la bietola è... quelle coltivate sono sicuramente barbabietola e quindi tolgono sia la radice che la foglia, capito? E già sono buone comunque. Ma la barbabietola non è dolce. c'è quella dolce, c'è quella che è più amarognola, capito? C'è quella rossa, che poi le foglie non è che sono dolci come la polpa, capito? Le foglie più o meno sono sempre quelle. Sì, ce n'è un tipo che cresce col gambo rosso, che ha dei frammenti rossi. Quelle sono buone lo stesso. Poi ci sono quelle col gambo biancastro anche. Queste erano così, con il gambo bianco largo largo, le foglie belle ambrose, ma con una voglia, con tre mazzi ho riempito l'aperto la pressione. Lo credo, sì, no, ma quelle sono buone, anche la frittata ci puoi fare con quelle. Frittata con le uova, le bietole, le sminuzzi, capito? Gli dai una scolata e poi gli metti un po' di parmigiano insieme alle uova, giri tutto, butti in padella e ti esce una bella frittata. Sì, già fatto, Carlo. Già lo so, sì. Già è buono. Sono buona, le bietole a me mi sono sempre piaciute. Io c'era un periodo che facevo dieta e quando mia moglie andava a comprarmele al mercatino in Piazza dei Segni, ne comprava 4 matti, 5 matti alla volta. Ogni volta che andava, quello gli ha detto, ma che cosa c'ha? Qualche animale che mangia questa roba? E no, dice mio marito che le mangia perché a dieta non mangia altro, mangia le bietole. E anche a me piacciono, non dico che le mangi tutti i giorni, però sono buone, è più dolci degli spinaci, per esempio gli spinaci rimangono più amarognoli, capito? Infatti anche la frittata è meglio quella di bietole, che rimane più dolciastra, capito? È più buona quella di bietole, ci metto anche le cipolle, ci metto, e faccio la frittata, formaggio, cipolle, uova, pezzi di bietola fina fina. C'è buono, caspita se buono. Oh yeah, la fame mi sta venendo parlando di queste cose. Sì, a me già mi è venuto l'angurino, però mi sono frenato un po', dai. Sono andato a fare le analisi per il diabete, tutto quanto, metto tutto a posto, sta migliorando, ha migliorato dall'altra volta. Ci vediamo a luglio. Meglio così. E beh, quella caduta che hai fatto, come ancora dolori c'hai già? Ma è roba muscolare, non è roba alle ossa, è roba muscolare, ho stirato. Tu immagina che sono caduto praticamente con la gamba allargata, tipo una spaccata ho fatto, così, capito? E ha stirato la gamba, tutta la destra. Io quello che ho avuto paura è che come ho preso il colpo al sedere che mi fossi russato l'osso di nuovo. Invece, grazie a Dio, sono riuscito a sollevarmi. Ho chiuso la porta, mi sono attaccato alla bariglia, se no non riuscivo. Andavo a sollevarmi e scivolavo, perché c'era detersivo in terra. La prossima volta stacci più attento. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Ho fatto una cavolata io, dai. Mi sono tolto le scarpe per non fare segni in terra. Mi sono ricordato che gli occhiali erano in cucina. Adesso mi rilasso un po', si quando asciuga in cucina che va appena lavato. Si quando asciuga mi rilasso e poi metto le sedie a posto e tutto quanto. E sono andato per prendere il telefono e mancavano gli occhiali, sono entrato per prendere gli occhiali che erano in cucina, per non fare le pedate mi sono tolto le ciabatte, ed era piedi nudi, è quello che mi ha fottito, l'ho fatta io la cavolata. Vabbè, la prossima volta più attenzione, dai, importante non ti sei fatto niente di male, dai, di ossa eccetera, perché quello è brutto, è quello. Poi se hai preso qualche colpo così ai muscoli, quello piano piano già passa, qualche livido magari, ma col tempo quello passa tutto. No, lividi no, cioè solo ho fatto lo stiramento proprio al gluteo, capito? Ma sto facendo ginnastica, quindi bene o male riusciamo a rimediare. Ho riattivato bene il muscolo del polpaccio, perché oggi me l'ho toccato, l'ho stirato e l'ho toccato e si è riattivato bene. Ho capito. Niente, io sto usando la radio piccolina, ma già c'è bene lo stesso anche questa. Aspetta, la voce tua, come quando sei in verticale, la stessa cosa. Ho provato il microfono dell'altra, funziona, però non cambia i canali dal microfono, capito? Però se lo attacco, perché anche questo è quel tipo Eletret, funziona. Solo che in questa radio puoi mettere sia quello normale a 4 pin che quello a 6, capito? E com'è possibile? C'ha due attacchi. no, l'attacco ce l'ha 6, però dal display puoi, praticamente è una radio president questa, puoi scegliere il microfono a 4 poli oppure quello a 6 poli, capito? Puoi mettere quello normale, dinamico, oppure quello elettrico. Quello che c'è l'up-down, ho capito. Sì, sì. Va bene, dai. Va bene come radio. Poi il presidente sono sempre stata delle belle radio. Sì, sì, esatto. Questa è piccolina, di quelle proprio tascabili, dai, te la metti in tasca. È talmente piccola. Però già va bene, è quella che uso in macchina, tanto è un attimino la stacco, c'è la staffa, la lascio in macchina e questa l'appoggio qua, già rimane ferma. Com'è, a slitta la staffa? Sì, esatto, ci sono due fermezzi, li allarghi e la sfili in un attimo e poi siccome il collegamento elettrico ce l'ho alla presa accendisigari, quindi sfilo, stacco lo spinotto, capito, svito l'antenna e l'antenna la lascio in macchina, capito, è sempre piazzata là. Sì, sì, sì, ma la lasci attaccata, no? No, no, la metto nel portabagagli, là quando solo mi serve, insomma, l'attacco e se sto camminando. E poi se fermo la macchina è un attimo, capito? Prendo e la metto dentro il portabagagli, perché così nessuno la vede, eccetera, è meglio così. Ma infatti, vabbè che non te ne tocca nessuno, è difficile che te ne tocchi. A me già me l'hanno rubata dalla macchina sotto casa, me l'hanno tagliato il filo, l'ho lasciata a 5 minuti, sono sceso giù, non c'era più l'antenna, me l'hanno tagliato il filo e rubata l'antenna. No, a me la macchina non me ne toccano, però mi toccano la macchina come avanti ieri. Se nella sfortuna sei stato fortunato che hai trovato la persona, invece a me l'hanno toccata e nessuno ha messo il bigliettino, capito? Me l'hanno toccata, me l'hanno fatto la strisciata, diciamo che non era una cosa grossa, probabilmente la mia come era sporca ha salvato quello, perché mi ha fatto, non ha incavata, l'ha fatta superficiale, è stato un po' di pasta abrasiva, ne ho quasi tutta uscita, capito? Sì, ho capito, evidentemente non c'era macatura, era solo un graffio leggero, magari c'era il nero del paraurti dell'altra, e invece la mia è proprio ammaccata, capito? E proprio, io non lo so, penso che mi sostituiscano tutto il parafango. Non l'hai portata, vero? No, perché mi ha chiamato l'assicurazione e praticamente mi hanno detto che la terranno lì almeno 3 giorni, la devo portare quando faccio i turni di sera, in maniera tale che così, no, guardi che lì le danno anche la macchina sostitutiva, perché loro hanno le officine sovvenzionate, praticamente non c'è bisogno neanche più del diritto, però tu devi andare dove ti dicono loro. L'assicurazione è quella dove sono io? Esatto, cattolica, mi hanno mandato poco fa il messaggio e mi hanno mandato l'indirizzo, aspetta che te lo dico, Allora, si chiama Car Clinic, Fredda Nieda 27, capito, e praticamente loro sono partner della cattolica, capito, dell'assicurazione, quindi non c'è bisogno di perito, tu vai là, loro ti sostituiscono il pezzo, ti dicono quanto in tempo impiegano con la lavorazione, se hai problemi te la portano loro a casa, oppure ti riaccompagnano loro a casa, io per portarla non ho problemi, perché magari poi mi viene a prendere mia moglie, capito, il problema è che se me la trattieni più giorni, capito, sto andando a lavorare, a meno che non gliela porto quando c'ho libero riposo, capito? Mi devo organizzare, insomma. Ma se ti danno la macchina sostitutiva, prendila, io alla Fiat facevo così. Vedi, la Fiat si paga un sacco di soldi per fare il tagliando e cose, però c'è di bello che se ti fermano la macchina e a te ti serve, gli dici voglio la macchina sostitutiva, mi avevano dato una Jeep di quelle tipo nuovo, e guarda, cioè, cercare il freno, tutto quanto a pulsanti, un casino quella macchina, poi consuma, ui quanto consuma quella macchina, anche diesel, me è la diesel quella lì, gli ho messo 20 euro, ce l'ha succhiata in pochi minuti. Accidenti. No, io adesso già vedo di organizzarmi, magari domani o dopodomani ci passo, perché loro mi hanno detto che praticamente inviano tutto il fascicolo all'autofficina con insomma il danno che c'è. E ho detto il perito quando viene, no, non c'è bisogno, dice noi non ci avvaliamo più del perito perché la mandiamo dove vogliamo noi per aggiustarla, capito? Per cui non è necessario. Poi loro ci dicono abbiamo sostituito il pezzo, l'abbiamo aggiustato, l'abbiamo verniciato, capito? Vedono un po' loro, capito? Sì. Vabbè, comunque, se tu lo vuoi cambiare, fai bene che lo cambi, perché il danno te l'ha fatto a te, però io ho visto su internet che li aggiustano anche quando sono spaccati addirittura i parauti, li aggiustano e li mettono i pezzi dietro, eccetera. Poi queste ammaccature qua le tirano con questa pistola a caldo, scaldano il coso, poi gli danno un colpo da dietro e si rimette in sesto come la prima. Ho capito. Guarda, basta che me la mettano a posto, perché così com'è mi dà un po' di fastidio, dai, perché proprio sembra, si vede se guardi là dietro, vedi questo bozzo e non è bello. Io sono peggio di te, non posso vedere le macchine tenute male o ammaccate o fatte. E vabbè, già si rimette a posto, ma diciamo che è una fesseria, basta svitarlo, il paraurti, lo rimetti nuovo, lo rivernici, è fatto il gioco, non è che ci sia, per chi lo sa fare. Io già mi sono sempre appentato, diciamo, visto che ti ho mandato la base magnetica riverniciata. Aspetta che guardo, ma me l'hai mandato adesso, no? No, ieri te l'ho mandato, ieri. Ho tutta questa ripristinata, te l'ho detto, gli ho fatto il fondo che avevo perso la gomma, gliel'ho fatto con la pelle per asciugare la macchina, ce l'è presente? Sì, ho capito, quella di ieri, sì, quella già l'ho vista. Io mi appetto a verniciare, ho fatto anche a parecchio verniciato, ma fatti bene senza nemmeno una sbavatura, niente. Però in effetti 36,12 e 4,99 su coso, su eBay costa meno, ci sono le spese di spedizione, fai 5 euro, sono 41, contro là è 45, più non so se c'è la spedizione o meno, dopo controllo, perché se là c'è la spedizione compresa, gira, più o meno è la stessa cifra. Ah, così. Ma in me forse non si paga la spedizione. Guarda, io ho Prime con Amazon, e quindi se le, diciamo, si può fare l'acquisto diciamo su con prodotti Prime, magari lì ho la spedizione gratuita. Sì. E provo a vedere se è la stessa cosa. Dove viene di più? Su eBay? No, per adesso sì, su eBay, però poi voglio vedere se ci sono altri negozi su Amazon che magari la vendono o meno. Ci sono anche degli articoli su Amazon che vendono meno. Ancora di Amazon normale, ci sono degli articoli che vendono di meno. Scusami solo un attimo, che un mio collega mi sta chiedendo un link e quindi mentre sto parlando con te sto cercando, eccolo qua, non l'avevo buttato. Insomma, tu lavori anche quando non lavori. No, è perché praticamente noi facciamo, forse te l'avevo accennato una volta, il simulscan, no, un'ora al mese dobbiamo fare di questo simulatore, capito? E c'è una nuova versione, accedi a questa piattaforma dove ti fanno vedere delle immagini, capito? E tu devi fare l'addestramento. Ma voi andate al poligono a fare l'addestramento, oltre a quel simulatore? Sì, ogni 3 mesi purtroppo. Ah, cavolo. E va bene, ti tieni allenato almeno, sarai un tiratore scelto. Sì, noi non è che stiamo lì a fare le cose di precisione, non è che già la usiamo